Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il mestiere dell'allenatore è un mestiere veramente particolare, perché oggi sei il più grande, il più intelligente, e magari due settimane dopo sbagli due partite o la tua squadra sbaglia due partite e sei tu quello che paga. Insomma, l'allenatore vive una sfida continua, e questo vale non solo per le grandi squadre che hanno obiettivi importanti e che guadagnano e fanno girare un sacco di soldi, ma vale anche e forse soprattutto per le squadre di provincia, quelle che hanno risorse economiche limitate. Abbiamo visto negli ultimi anni arrivare in Serie A dei piccoli miracoli, no? Il Frosinone, il Novara, il Carpi, e naturalmente sono società che quasi sempre dopo aver ottenuto la promozione sono state immediatamente retrocesse. Oggi noi raccontiamo la storia di un'altra squadra di provincia che sembrava destinata alla retrocessione e che invece ha saputo combattere fino all'ultima giornata e ha conquistato un traguardo storico, la salvezza. Ma non è solo una storia di calcio, questa è una storia di una squadra guidata da un allenatore che ha vissuto un dolore enorme e che ha saputo trasformare questo dolore in forza per combattere le sue battaglie. Parliamo di Davide Nicola, allenatore del Crotone. Credo che ci siano assolutamente una certezza, ossia che il campionato di Serie B sia assolutamente diverso da quello di Serie A. Però noi abbiamo avuto prova negli anni, anche se per le neopromosse è sempre stato molto difficile, dove devi buttare il cuore oltre l'ostacolo, dove ciò che hai fatto l'anno scorso non basta più, devi fare molto molto di più. È chiaro che però il primo anno è lo scotto e lo scoglio più duro, perché si parte dall'anno zero, no? Secondo me, quando tu hai comunque due componenti che sono l'entusiasmo e la passione per ciò che fai, sei sicuramente avanti. Queste sono le parole con cui Davide Nicola ha esordito alla conferenza stampa di presentazione del luglio 2016. Il Crotone è in Serie A, dovrà lottare con le unghie e coi denti per rimanere in Serie A. Prima di tutto ci vuole la mentalità giusta, una mentalità positiva, perché bisogna sopperire a delle inevitabili carenze tecniche, e le squadre piccole hanno poche risorse, non possono comprare i top player, devono rinforzarsi in maniera organica in ogni reparto con quello che hanno a disposizione. Davide Nicola lo sa, perché lui lavora da anni con le squadre di provincia, abituato a combattere ogni domenica per rimanere seduto sulla sua panchina. Lui era stato un buon calciatore prima di diventare allenatore, nato a Luserna San Giovanni, che è un comune a due passi da Torino, e anche se a Torino ci sono ovviamente due squadre con ottimi settori giovanili, lui parte dal Genoa, dal Grifone, in quel popolo genoano caro a gente come Franco Scoglio. Lui è del 73, quindi nel 92, a 19 anni, approda in prima squadra. A allenarlo non c'è ancora Scoglio. In realtà Scoglio arriverà l'anno successivo, ma per Nicola è solo una parentesi, perché a fine anno andrà in Serie B al Fidelis Andria. Lui è un buon difensore e vive una carriera nomade: Andria, Ancona, Pescara, Genoa, Ternana, Spezia, Torino, sempre in Serie B. È un giocatore operaio, uno di quelli che si sacrificano in silenzio e non riesce mai a fare il grande salto verso una grande squadra, però nella sua vita da giocatore c'è tempo per un grande colpo d'ala. Dalla bandierina Rosina, al centro ha bruscato su di lui Notari, Rosina, colpo di testa di Nicola, 3-0! Il Torino è a un passo dalla Serie A, e la legge di questa doppia sfida è impressionante. Ancora un gol su palla inattiva. Nicola, che aveva deciso parzialmente la sfida di Cesena, una di quelle determinanti nella stagione del Toro, qui va a determinare un motivo e un momento fondamentali di questo match di ritorno. Anche De Biagio ad abbracciarlo. Siamo nella stagione 2006, il Torino, rinato dalle ceneri della squadra che era fallita l'anno precedente, arriva terzo in classifica, va ai play-off e qui batte il Mantova con un 3-1, il gol decisivo, diciamo, quello che mette tutte le cose a posto, è proprio di Nicola, un colpo di testa sul calcio d'angolo, e il Torino torna in Serie A. Nicola viene ceduto allo Spezia, insomma lui rimane in B malgrado il gol che ha riportato in Serie A Granata. Nello Spezia sarà una pedina fondamentale in una difesa che permetterà agli spezzini di salvarsi dalla retrocessione. Poi nel 2010 l'ultima stagione da calciatore, siamo a Lumezzane, e poi ci si siede in panchina in qualità, diciamo, di allenatore. Il Lumezzane in Serie C, Lega Pro. Nicola porta la squadra fino ai playoff, sfiora addirittura la promozione in Serie B, che sarebbe stata storica. Partecipa al supercorso di Coverciano e all'abilitazione, può allenare in Serie B, in Serie A, e ottiene la panchina del Livorno. Serie B, sta per iniziare un anno fondamentale perché lui ha finalmente l'occasione di inseguire un obiettivo prestigioso, la promozione. Il falco e il gabbiano. Il presidente del Livorno è una vecchia conoscenza di Davide, Nicola e di tutto il mondo del calcio, perché si chiama Aldo Spinelli, era stato presidente del Genoa anche nel periodo in cui Nicola era calciatore del Genoa, e adesso invece è presidente del Livorno, deve gestire una squadra che a fine stagione si trova faccia a faccia con l'Empoli, allenata da un certo Maurizio Sarri. Si gioca coi playoff, l'accesso alla Serie A, doppio confronto, a Empoli va 1-1, a Livorno le cose vanno diversamente. Cross, mancino, Paulinho, e Livorno in vantaggio, la sblocca Paulinho, la sblocca sempre il bomber che vola sotto la nord, allungato il traversone di Schiattarella, Paulinho sotto la curva, Livorno 1 Empoli 0. Finisce qui, dopo 3 anni, riecco il Livorno in Serie A. E c'è un uomo che corre a perdifiato verso il centro del campo appena l'arbitro fischia la fine della partita. Quell'uomo è lui, Davide Nicola. Ha raggiunto il suo primo grande traguardo come allenatore. È un colpo d'ala che lo fa emergere e può andare in Serie A, può andare a giocarsela con le grandi. Immaginate la festa per una squadra che torna in Serie A, Livorno. Poi ci si deve mettere a lavorare, perché bisogna pensare a allestire una squadra che possa salvarsi dalla retrocessione, ma i risultati non sono buoni. Il Livorno è a fondo classifica. Il 13 gennaio 2014 Davide Nicola viene esonerato, si torna a casa, si va a Vigone nel Torinese, ci si prende una pausa, nella vita di un allenatore, insomma, queste cose capitano, bisogna riflettere sul futuro, bisogna cominciare con una nuova avventura, magari una nuova sfida. L'allenatore è questo, vi ricordate che Arrigo Sacchi per esempio ha lasciato il mondo del calcio, cioè ha smesso di allenare perché non riusciva a reggere la tensione delle partite. Però i rapporti con Livorno non sono deteriorati, Spinelli è un presidente vecchio stile, è un signore, sa riconoscere anche i suoi errori. Quando anche il nuovo allenatore, che è Di Carlo, non riesce a risollevare il Livorno, Nicola viene richiamato per cercare di fare l'impossibile, cioè di centrare l'obiettivo salvezza. Il 19 aprile 2014 torna sulla sua panchina, però ormai il Livorno è in caduta libera e va in Serie B. In Serie B l'allenatore è lui, si deve rispondere alle domande di rito di fine stagione, bisogna cercare di tornare in Serie A, frasi di circostanze. A Nicola, che non ha ancora un ingaggio ufficiale, viene chiesto cosa si aspetta per il futuro. Questa è la risposta. Guarderò alla possibilità di star dietro alle mie ambizioni, quindi qualsiasi tipo di progetto che sia legato alla voglia di far bene e di avere una continuità, e misurandosi in un campionato che sia altamente competitivo come quello di quest'anno. Poi questi sono i sogni, i propositi, bisogna poi avere il realismo, quando sarà ora, di valutare se questo è accaduto oppure se si dovrà scegliere un altro tipo di percorso. Beh, insomma, un'intervista come tante ne abbiamo sentite a migliaia, frasi di circostanza. Nicola sta aspettando il nuovo ingaggio, sta ragionando con la società, insegue i suoi obiettivi, e ognuno di noi in realtà ha degli obiettivi da seguire, però c'è qualcosa che a volte, ahimè, può rivoltare tutte le carte sul tavolo, il destino può cambiare tutto in un secondo. Siamo al 14 luglio, una giornata d'estate, le scuole sono finite, i ragazzi sono all'oratorio, sono nei campi sportivi, vanno in bicicletta. Ecco, in bicicletta c'è anche Alessandro, il figlio 14enne di Davide Nicola, il secondo dei suoi quattro figli, una famiglia numerosa con una forte fede cattolica. Alessandro è in bicicletta, sta tornando a casa, un autobus gli passa accanto, lui è sul marciapiede, uno scarto improvviso, forse una buca, la bicicletta che va sotto la ruota posteriore dell'autobus. Alessandro rimane schiacciato, la corsa all'ospedale che si rivela inutile. Alessandro muore quel pomeriggio di luglio, la vita di Davide Nicola cambia per sempre. È il giorno del funerale, ci sono tante persone, ci sono i ragazzi del Livorno, ci sono i compagni di squadra di Alessandro, è uno strazio che non voglio neanche immaginare, è sulla cancellata dello stadio Armando Picchi di Livorno, compare un grande striscione, forza mister, Livorno ti è vicina, e Nicola è lì. Dispensa anche sorrisi per gli altri, lui sembra forte e questo dolore sta diventando il suo personale colpo d'ala, si butta nel lavoro, c'è una squadra che in Serie B sta navigando in cattive acque, le ultime tre partite sono state tre sconfitte, l'allenatore viene esonerato e a novembre del 2014 Nicola è pronto a ripartire, è seduto sulla panchina del Bari, sta navigando controcorrente come ha imparato a fare. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grande uomo che si chiama Davide Nicola, è un giovane allenatore di calcio, un allenatore di quelli di frontiera che trascorre gran parte della sua carriera allenando squadre di Serie B e non riesce a salvare il Livorno nel 2014, ma in quel 2014 c'è questa retrocessione che non rappresenta nulla se viene messa a confronto con la sua immane tragedia, la tragedia che colpisce Davide Nicola, la sua famiglia, la tragica fatalità che gli porta via Alessandro, il figlio 14enne, è un colpo terribile e Davide Nicola cerca di reagire con una forza inaspettata. È un onore per me essere qui, un grandissimo onore, me ne sono reso conto ieri sera quando sono stato prelevata all'aeroporto. Sono quelle sensazioni di una piazza che ovviamente ha una fame incredibile e io sono una persona che ha una fame incredibile. Ho tanta umiltà quanto la mia ambizione, né più né meno. Però non sono una persona che, a cui la presunzione piace, perché a me tutto è costato fatica e continuerà a costare fatica. E queste sono parole che assumono anche un peso diverso, no? Se si conosce quello che si stanno portando dietro, questo è il suo discorso di presentazione per il suo nuovo incarico. Siamo a Bari, siamo in Serie B, lui è stato ingaggiato come allenatore. E certo, l'unico modo per superare dei dolori così strazianti è quello, buttarsi a capofitto nel lavoro, quello che accade a lui, a Davide Nicola. È un campionato dignitoso, un decimo posto vuol dire un altro anno in Serie B, però ci sono per certi club degli obiettivi che valgono più di uno scudetto, e poi due o tre risultati negativi, così il dicembre 2015 per Nicola, cioè non siamo solo all'ultimo giorno dell'anno ma anche all'ultimo giorno da allenatore del Bari. Bisogna andare a luglio 2016 e alla conferenza stampa con la quale abbiamo iniziato il nostro racconto. C'è una nuova sfida da affrontare, questa volta si fa sul serio, si va in Serie A e si gioca con la Juve, con la Roma, col Milan, con l'Inter, e tutto questo combattendo alla guida del Crotone, una neopromossa, prima volta che il Crotone arriva in Serie A. Tutti gli addetti ai lavori la definiscono una, come dire, una vittima predestinata, candidata a una immediata retrocessione, ma Davide Nicola non ha paura delle sfide, lui ha imparato a guardare negli occhi la paura, lo sa che il calcio è pieno di fa e di disillusioni, però per affrontare un anno difficile bisogna attrezzarsi, ma bisogna essere positivi. Your... Il campionato per il Crotone parte in salita. Nelle prime 10 giornate solo 2 pareggi. All'11esima la prima vittoria 2-0 contro il Chievo, la prima di 2 sole vittorie per tutto il girone d'andata. Insomma, il Crotone è quasi retrocesso, in fondo alla classifica, è condannato senza nessuna speranza. Però la dirigenza del Crotone compie un atto di grande maturità, perché Nicola non viene esonerato come accade quasi sempre. Insomma, ci sono anche casi di squadre famose che esonerano allenatori ogni 2-3 mesi. E il Crotone è, alla fine è una grande famiglia, e se si sbaglia tutti assieme. Se ci sono dei problemi, bisogna rimanere uniti. Poi in verticale subito la chiusura di Martella e l'errore con l'inserimento di Ciro Immobile. Ancora lui, dopo 7 giornate, si sblocca Ciro Immobile nei minuti finali. Arriva adesso il fischio finale di Maresca, finisce 1-0 il match dell'Olimpico tra Lazio e Crotone. Questa è Lazio-Crotone, ultima partita del girone d'andata. La Lazio vince, ma vince a fatica. Il Crotone dà l'impressione di essere una squadra che non si arrende mai, continua a lottare ogni partita anche se non arrivano i risultati. Poi piano piano cominciano ad arrivare i primi punti, fino a una svolta che è la giornata numero 12 del girone di ritorno. Il 9 aprile il Crotone incontra l'Inter e vince 2-1. Ma sicuramente noi abbiamo un calendario molto impegnativo, però siamo nella condizione, secondo me, di rispettare quello che ci siamo detti. A noi interessa essere competitivi fino alla fine e tenerci questo sogno in fondo al cuore, senza chiacchierare più di tanto, ma facendo vedere con prestazioni tipo oggi che ci siamo, che possiamo essere competitivi. È chiaro che oggi siamo contenti, ma di per sé solo la singola partita non ci cambia come differenza. A noi interessa l'obiettivo finale, e per arrivarci secondo me dovremmo fare sempre qualcosa di straordinario da qua alla fine. E piano piano arriva fieno in cascina, un pareggio col Torino, un pareggio col Milan e 3 vittorie, Sampdoria, Pescara e Udinese, più i 3 punti presi all'Inter, sono 14 punti in 6 giornate, una cavalcata irresistibile. Il Crotone sta viaggiando a una media da quarto quinto posto in classifica, e intanto le altre davanti cominciano a arrancare. Bisogna però superare un'altra squadra, e la vittima, l'obiettivo sarebbe l'Empoli, che è quart'ultima. Alla penultima giornata però si gioca a Torino, la Juve deve vincere per chiudere il capitolo scudetto, aveva perso a Roma, quindi ha bisogno di quei punti, e vince battendo il Crotone. La Juve è campione d'Italia, tutto rimandato all'ultima giornata per la retrocessione, un finale degno di un thriller. L'ultima giornata c'è ancora la Lazio. La storia del Crotone è una storia semplice, eppure non è facile da raccontare. Insomma, io ho rivissuto un anno intero. Negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, siamo stati definiti o hanno parlato di noi come una favola. Se la devo pensare come una favola, beh, allora voi sapete che io voglio il lieto fine matematico. Questa è la conferenza stampa prima della partita, e il Crotone batte la Lazio 3-1, l'Empoli va a Palermo e perde contro il Palermo già retrocesso. Il presidente del Crotone esulta con un foglio scritto a mano che dice: scusate se siamo rimasti in Serie A, questa è la vittoria di una squadra, ma è la vittoria di un popolo, di una città, è veramente un grande sogno, si festeggia fino al mattino. Passata questa euforia, adesso bisogna tornare a lavorare e bisogna ritornare a attrezzarsi per un'altra battaglia, perché per il Crotone evidentemente anche il campionato dell'anno prossimo sarà una battaglia. Bisogna trovare dei rinforzi e ripartire in salita, perché c'è un'altra favola da vivere. Per Davide Nicola sono stati mesi di emozioni terribili, di concentrazione, di tensione, sicuramente anche di sofferenza, e lui mostra una grinta incredibile ogni domenica dai bordi del campo, ma nella sua vita c'è un vuoto terribile, un dolore che lui riesce a mascherare con la grinta che infonde nel suo lavoro. Però ci sono stati dei momenti nei quali il ricordo di Alessandro è riemerso più dirompente che mai. Era già successo quando allenava il Bari nel 2015, una vittoria contro il Latina, una maglietta mostrata a fine partita con la scritta "Buon compleanno Ale", una dedica speciale per una vittoria che però per lui coincideva con un giorno terribile, il compleanno di un figlio che non c'è più. Oggi lui è l'uomo del miracolo, è l'uomo della favola, del Crotone, però il suo colpo d'ala più grande è la sua vita interiore e anche le poche righe che ha scritto sulla sua pagina Facebook dedicate a suo figlio. Ciao amore mio, non so dove sei, non so cosa starai facendo. Forse sei su quella nuvola che era su di me quella sera, quando correvo per far volare la tua lanterna. O forse sei qui, accanto a me. Sì, sono sicuro che sei qui con me. Abbiamo lottato insieme in questo anno complicatissimo, ma oggi so che tu sei sempre stato lì con me. Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di continuare a inseguire l'impossibile. La perseveranza è ciò che rende l'impossibile possibile, il possibile probabile, il probabile certo. Ale, questa non è la mia vittoria, ma la nostra, proprio come quella della promozione in Serie A del Livorno. Avrei voluto gioire con te, guardare i tuoi occhi e il tuo sorriso, prenderti per mano e insieme a te correre e festeggiare. Tutto questo è solo per te e ogni mia conquista è la tua. Ogni mia vittoria sarà la tua. Ogni mio sogno sarà anche il tuo. Voglio che il mio cuore continui a battere per te e tu possa vivere ancora attraverso me. Beh, è una lettera meravigliosa, terribile, c'è tutto in questa lettera. Padre verso un figlio che non c'è più è qualcosa che fa male sentire, ma è anche bello sentire. A Vigone c'è il Memorial Ciao Ale, un torneo di calcio per ragazzini di 10-11 anni, lo ha organizzato lui, Davide, che ha anche fatto una promessa ai suoi tifosi: se ci salviamo vado a casa in bicicletta. 1380 chilometri da Crotone a Vigone, 1380 chilometri da fare con il ricordo di un figlio nel cuore, ma anche con la consapevolezza di aver fatto sognare tutta la città di Crotone e tutto il popolo di quella zona, perché una salvezza a Crotone vale 10 scudetti di qualcun altro. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sui miei social Facebook, Twitter, su quelli della trasmissione, sul sito di Radio 24, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.